Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economica. Ripercorreremo alcuni dei temi economici, chiaramente dell'ultimo discorso di Barack Obama sullo Stato dell'Unione. È l'appuntamento annuale negli Stati Uniti per fare il punto su tante vicende, e infatti si è parlato anche soprattutto di politica estera, dell'Obamacare, della riforma del sistema sanitario americano, dei rapporti appunto con Iran, Cuba e Cina, e anche di temi di carattere più sociale, il fronte dei diritti civili e quant'altro. C'è stato anche ovviamente un aspetto importante dell'intervento, del discorso di Barack Obama, che ha riguardato l'economia, e di questo parleremo. Dagli Stati Uniti alla Russia, sembra di essere tornati alla guerra fredda, ma non è così, perché l'altro tema di oggi riguarda oggettivamente il danno economico ulteriore che si sta creando in Russia come conseguenza, non tanto in questo caso dell'embargo, quello ha già fatto e continua a fare danni, ma del prezzo del petrolio. Non è un mistero per nessuno che la Russia è il primo esportatore di gas al mondo e ha le riserve più grandi al mondo, e ha anche una bilancia commerciale importante per quello che riguarda la voce petrolio. Ora, ci sono 25 miliardi di euro di effetto delle sanzioni imposte da Unione Europea e USA sul commercio con la Russia, ma c'è poi tutto l'effetto del prezzo del petrolio. Per Mosca un prezzo del petrolio accettabile per avere un bilancio in pareggio dovrebbe essere intorno agli $80 al barile. Siccome siamo a cavallo dei 30 e le previsioni sono di un petrolio che potrebbe scendere anche vicino a 20, dollari al barile, è chiaro che lo stesso primo ministro russo, Dmitry Medvedev, ha detto è necessario prepararsi al peggio se i prezzi del petrolio dovessero scendere ancora, e il ministro russo alle finanze Siulianov ha detto che il bilancio pubblico della Russia è sostenibile solo con i prezzi del petrolio, bilancio che hanno predisposto a $82. La strategia dovrà essere cambiata in maniera urgente, ha detto lo stesso Siulianov, e anche perché il ministro dello sviluppo economico russo, che ha un nome quasi impronunciabile, Alexei Ulyukaye, ha detto che anche secondo loro il prezzo basso del petrolio potrebbe durare decenni. Tra l'altro, insomma, su questo poi c'è un deficit russo che continua a salire. Insomma, arriveremo al tema, anche perché poi a inizio febbraio vi sarà un'importante manifestazione a Mosca nel settore alimentare, che vedeva l'Italia anni fa presenziare questa manifestazione con oltre 70 imprese. Adesso sono poco meno di 14. Questo perché il danno che sta subendo anche e soprattutto l'Italia sul blocco, sulle sanzioni, diciamo, con la Russia, è fortissimo, in particolar modo nel settore legno arredo e nel settore alimentare. Parleremo di questo, dicevo, poi delle voci sulle banche popolari. Allora, oggi di banche si parla molto per il dato sulle sofferenze bancarie, ci sono parecchi movimenti e anche indiscrezioni. Dico subito, bisognerà abituarci, sì, nel senso che sappiamo che il risico bancario significa in primo luogo soprattutto il risico delle banche popolari dopo la riforma voluta dal governo. Però, dicevo, oggi ci sono voci e indiscrezioni su alcune banche popolari. Nel caso specifico, lo riporta il Sole 24 Ore, un'analisi, e stanno volando i titoli della Popolare di Milano e del Banco Popolare. Popolare di Milano più 5,25%, Banca Popolare più 3,70%, Popolare Emilia Romagna più 3%, UbiBanca più 1,60%, come Intesa San Paolo, che non è sicuramente una banca popolare, nel senso di come azionariato, non che non sia popolare come giudizio, Monte dei Paschi più ne 60, Generali più ne 30, Campari più ne 20, Enel più ne 1, così do anche la borsa, Eni più 1% come Enel Green Power. Il fronte opposto, Anima Holding meno 3,40, Moncler meno 2,70. Ora, il fatto che il lusso ieri fosse forte, oggi è in calo, la dice lunga sulle, sugli atteggiamenti in questo momento degli investitori, sono molto molto mordi e fuggi in borsa. Moncler meno 2,70, Tod's meno 2,30, Hughes Net-a-Porter meno 1,80, percento, Ferragamo meno 1,30, cito anche Azimut meno 2,16 e Saipem meno 1,70% come Fiat Chrysler. Di nuovo in calo Ferrari invece, meno 1,40% sotto i 40 euro per azione a 39,94, e quindi parleremo anche delle fusioni ipotizzate. Faccio notare che il Banco Popolare, la Popolare di Milano, sono state più volte sospese a rialzo proprio per le voci sempre più insistenti, non sono nuove, della fusione tra i due gruppi. E l'altro pretendente, non a caso sale anche oggi, è UbiBanca. Chiedo scusa per la cattiva qualità della voce. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Chiaramente 349-238-6666 è anche il numero per scrivere su WhatsApp. Gli embarghi da Russia se li fatti da sola. Non stiamo entrando nel motivo per cui si è arrivati alle sanzioni sulla Russia, lo sappiamo tutti, la guerra ucraina, o meglio, quello che è successo in Ucraina, le tensioni. Non ho detto che fossero sbagliati le sanzioni e le controsanzioni russe erano da attendersi. Ho detto solo che l'Italia, assieme alla Germania, è il paese che ne sta più pagando le conseguenze come interscambio commerciale. Poi uno, la valutazione sul fatto se abbiamo fatto bene o no a seguire gli Stati Uniti nelle sanzioni con la Russia, oppure se ci siamo invece, come dicono i critici, solo accodati a una decisione statunitense che danneggia molto più noi in proporzione che gli Stati Uniti, e la ripartenza del dialogo bilaterale. Abbiamo visto, abbiamo raccontato la vicenda del Nord Stream, per cui l'Italia ha fatto notare, devo dire che non è sola, anzi solo la Germania e forse l'Olanda che la pensa diversamente, che il Nord Stream in questo momento ha tutto all'aspetto di un accordo bilaterale, che non è possibile. Altra cosa se fosse un accordo di carattere europeo con la Russia, ma non paese su paese. Detto questo, stiamo solo ragionando su quello che sono i dati oggi diffusi dai vertici russi, visto che la previsione è di un calo del PIL del 4% anche quest'anno. Quindi non è che la cosa, 2015 si è chiuso con un calo del 4%, almeno sono le prime stime. Il rublo continua a perdere nei confronti dell'euro, ha perso il 10% nei confronti dell'euro e il 20% nei confronti del dollaro. Cioè, ci occupiamo di un'economia come quella russa. Ha ragione chi dice non ho detto gli indici, ha ragione, più 0,60 FTSE MIB, più 0,20 Parigi, meno 0,40 Francoforte, più 0,40 Londra, più 0,20 il Dow Jones, e l'euro è fermo, è inchiodato a quota 1,08. Oh, c'è chi ipotizza addirittura una fusione Banco Popolare BPM UbiBank. Ora, da quello che io ho sempre letto e sentito, la fusione era a due, quindi o Banco Popolare Popolare di Milano o Popolare di Milano UbiBank, insomma, a tre. No, però insomma, adesso vi arriviamo praticamente a mercati chiusi, non facciamo analisi a mercati aperti. Dicevo invece, sulle altre notizie di questa giornata, visto che parliamo di banche, partiamo dalle sofferenze bancarie. Di Mosca parleremo più avanti, di Obama parleremo subito. Faccio notare ancora due cose, però, che in Cina c'è stata una ripresa dell'export nel mese di dicembre ed è rallentato il calo delle importazioni. Per cui il segnale non è, è un segnale di miglioramento sia sulla capacità cinese di esportare, ma anche sulla minor riduzione delle importazioni, che a noi interessa di più visto che li esportiamo. Ancora vi sarà oggi il cambio $1 rimasto sostanzialmente invariato per il quarto giorno consecutivo nel tentativo di stabilizzare la valuta di Pechino e frenare il deflusso di capitali. Stavamo parlando di economie, veniamo a quelle europee, visto che in Germania il ministro alle finanze ha chiarito che nel 2015 la Germania ha avuto un surplus di 12 miliardi di euro, un avanzo positivo di bilancio che verrà utilizzato, ha detto Schäuble, per aumentare le riserve e per finanziare l'integrazione dei profughi. Faccio notare, però se lo dico ogni volta lei polemizza con la Germania, che il patto di stabilità prevede che tu non possa avere dei deficit, cioè dei disavanzi di bilancio troppo alti, e devi portarli a zero, cioè non oltre il 3% e andare verso lo zero, ma che non può nemmeno avere dei surplus, cioè degli avanzi di bilancio troppo alti, perché era chiaro a chi l'ha scritto quel trattato un po' stupido, che è stupido perché è poco flessibile, non è stupido in senso stretto, era chiaro che lo squilibrio è sia in un disavanzo eccessivo sia in un avanzo eccessivo. In una famiglia lo squilibrio è sia in un figlio che spende troppo e quindi accumula debiti rispetto a quello che guadagna, sia se uno risparmia troppo e spende troppo poco e poi mancano le componenti fondamentali della casa, okay? Cioè, l'equilibrio vorrebbe dire stare tutti vicini allo zero, zero come deficit, ma anche non avere troppo surplus. Non lo dico io, lo prevede il trattato, è che la parte del surplus di bilancio non viene mai messa in evidenza. Avresti anche la possibilità di sanzionare il paese che ha un eccesso di avanzo di bilancio, che ha un eccesso, diciamo, di soldi. Nel frattempo, oggi tecnicamente è andata scoperta l'asta tedesca di titoli di Stato, ha venduto i BTP Bund a 10 anni. Erano 3 miliardi e 850 milioni. La domanda si è fermata a, dunque, ne ha venduti 3 miliardi e 850 milioni. In realtà voleva collocarne 5 miliardi, ma la domanda si è fermata a 4 miliardi e 200 milioni. Il rendimento medio è dello 0,59%, cioè chi compra debito tedesco accetta di avere lo 0,59% lordo all'anno per 10 anni. E cala la produzione industriale in tutta l'area euro nel mese di novembre, meno 0,7%, Germania meno 0,5%, Francia meno 0,9%. I rialzi della produzione industriale più marcati sono in Grecia, più 3,3%, e in Slovacchia, più 2%. Male anche l'Olanda, meno 3%, il Portogallo meno 5%, e meno 0,7% il Regno Unito. E adesso una notizia che riguarda, visto che parlavamo dell'asta dei bot, dei Bund tedeschi, parliamo anche dell'asta nostra. Noi invece abbiamo avuto una piena adesione al BTP a 3 anni, però ha toccato un nuovo minimo storico allo 0,02%, cioè praticamente niente. Se ci metti anche l'inflazione è un rendimento negativo al netto, cioè lo 0,02% di interesse lordo ogni anno per 3 anni per comprare debito italiano. Venduti anche i titoli a 7 e 15 anni, a 7 anni il tasso è dello 0,99%, quello a 15 anni, il BTP a 15 anni ha avuto un rendimento in calo al 2%, quindi chi presta soldi allo Stato italiano accetta di avere il 2% lordo di rendimento per 15 anni. E comunque l'Italia ha collocato tutti i titoli che ha messo in asta per un totale di 6 miliardi e 750 milioni. Dicevo, una notizia che ha a che fare più con il nostro Enrico Pagliarini e il programma 2024, però il mercato mondiale dei PC, nonostante il lancio del nuovo sistema operativo Windows 10, non accenna a riprendersi, anzi viaggia verso la soglia, viaggia sotto la soglia psicologica dei 300 milioni di PC venduti. Nel 2015 infatti le vendite si sono fermate a 276 milioni, con un calo del 10%, è il livello più basso dal 2007, quando si vendettero 270 milioni di computer. Che cosa pesa? Beh, insomma, pesano soprattutto il rallentamento dell'economia cinese e vabbè, il dollaro forte che ha reso i PC più costosi in Europa, ma soprattutto la crescita inesorabile di smartphone e tablet, per cui il personal computer diventa sempre meno, ha sempre meno mercato, diciamo così. Oh, mi scrive uno ascoltatore: voi parlate sempre della, delle banche che non prestano soldi alle aziende, che ne dici delle sofferenze bancarie? Allora, le sofferenze bancarie hanno superato i 200 miliardi di euro, c'è anche un dato di oggi. Oggi però si è avuta una notizia che è tornato positivo l'andamento dei prestiti delle banche al settore privato, lo riporta la Banca d'Italia, spiegando che a novembre i prestiti hanno fatto più 0,6% su base annua, è la prima volta che capita da metà del 2012. Sono saliti anche i prestiti alle imprese, quelle delle famiglie erano già saliti in questi ultimi mesi, ma anche alle imprese. Famiglie hanno fatto più 0,8%, imprese più 0,2%. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. La firma oggi del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Dopo oltre 3 anni ripartono i prestiti da parte delle banche alle imprese. Siamo sempre nel mondo dello zero virgola, perché a novembre i finanziamenti alle aziende hanno ritrovato il segno positivo con un incremento dello 0,2%. 0, d'accordo, ma erano 20 mesi che il dato continuava a registrare un segno negativo. L'annuncio che ha fatto oggi la Banca d'Italia quindi aggiunge un ulteriore dato a quelli che stanno fotografando la lenta ripresa dell'Italia. La ripartenza dell'occupazione, la produzione industriale che nell'ultimo trimestre ha incamerato una crescita dello 0,4%, un rimbalzo degli ordini attesi pari allo 0,3%, l'aumento dell'1,3% del potere d'acquisto delle famiglie, che è il dato migliore dal 2007. 0, dicevamo purtroppo, ma comunque sono dati positivi, anche se faticano a tradursi in una robusta spinta alla ripresa. Basti pensare al dato sui consumi, che è positivo ma fermo appunto a un modesto 0,4%. Tornando ai dati della Banca d'Italia di oggi, va registrato che le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per 10,7 miliardi di euro nel terzo trimestre 2015. Rispetto allo stesso periodo del 2014 si registra un aumento dell'87,4%, pari a un controvalore di 5 miliardi di euro in più. Guardando ai numeri degli ultimi 12 mesi, ottobre 2014, settembre 2015, riscontriamo che sono stati erogati alle famiglie italiane finanziamenti per l'acquisto della casa per 35 miliardi di euro. Il saldo annuo, se confrontato appunto col periodo di riferimento precedente, segna un aumento dei volumi pari al 54,7%, con un controvalore di 12 miliardi di euro aggiuntivi. Insomma, un indubbio risveglio che fa ben sperare per l'industria dell'edilizia, che rimane il primo vero motore di una robusta ripresa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, adesso parliamo degli Stati Uniti e del discorso di Barack Obama sullo Stato dell'Unione. Due notizie ancora in breve però che riguardano l'Italia. Una è più che positiva, e cioè il 2015 si è chiuso con un record nel numero di visite ai musei in Italia. Lo dico più che positiva anche perché, come Sole 24 Ore, sapete che abbiamo la giornata della cultura, il manifesto per la cultura, ci siamo occupati moltissime volte di come rendere profittevole quello che da sempre viene chiamato il nostro vero petrolio, l'oro italiano, i giacimenti culturali che sfruttiamo male, spesso male. Però la notizia è positiva perché, come ha comunicato il ministro della cultura Dario Franceschini, 43 milioni di visite nel 2015 è un record da sempre, 155 milioni di euro gli incassi, in 2 anni i visitatori sono aumentati di 5 milioni. Ecco i 10 luoghi più visitati: il Colosseo, nonostante tutto, 6 milioni e 551 mila visitatori, più 6%, ossia 370 mila ingressi in più. Gli scavi di Pompei, anche qua, nonostante le polemiche e alcune agitazioni sindacali, più 12%, 2.900.000 visitatori, 312.000 ingressi in più. Poi gli Uffizi, 1.900.000 e 70.000, 2% in più. Gallerie dell'Accademia di Firenze, 1.400.000 più 6%, dove c'è il David per intenderci. Castel Sant'Angelo, 1.000.000 più 2,5%. Boboli, 860.000, il Museo Egizio di Torino 757.000 più 33%, la Avenaria più 5%, la Galleria Borghese Roma più 5% con 500.000 visitatori, la Reggia di Caserta più 16% per un totale di 500.000 di visitatori, sono 70.000 ingressi in più. La brutta notizia invece riguarda il gruppo General Electric, che ha deciso di tagliare 6.500 posti di lavoro nelle divisioni europee della ex Alstom, e ahimè riguarda anche l'Italia. La decisione di General Electric infatti riguarderà, riguardando le divisioni europee di Alstom Energia, coinvolge 236 lavoratori nel biennio 2016-2017 su un totale di 600. E Bentivogli della FIMCISA ha detto: inaccettabile, Italia Sesto San Giovanni, è lì che si concentrano i tagli della General Electric. Sono esclusi invece gli altri due stabilimenti, che sono uno in provincia di Padova e l'altro in provincia di Lecco. United States of America right now has the strongest, most durable economy in the world. In questo momento gli Stati Uniti hanno l'economia più forte e stabile del mondo. Abbiamo dato vita al più grande numero di posti di lavoro nel settore privato della storia. Oltre 14 milioni in 70 mesi, con il tasso di disoccupazione che si è dimezzato. L'industria dell'auto ha appena chiuso il miglior anno da sempre. Questo traguardo fa parte del risultato della nostra industria manifatturiera, che ha creato quasi 900.000 posti di lavoro negli ultimi 6 anni. Tutto questo tagliando il deficit di 3/4 rispetto al 2009. Chiunque sostenga che l'economia americana è in declino sta descrivendo una realtà che non esiste. Quello che è vero e che rende molti americani ansiosi è che l'economia sta cambiando in maniera radicale. Un cambiamento cominciato molto prima che colpisse la grande recessione e che non è finito. Oggi la tecnologia non sostituisce semplicemente posti di lavoro nella catena di montaggio, ma ogni tipo di mansione può essere automatizzata. Le aziende possono delocalizzare ovunque e devono affrontare una dura competizione. Il risultato è che per i lavoratori c'è meno possibilità di vedere aumentare i salari e sempre più ricchezza è concentrata nelle mani di pochi. Questi fattori hanno inciso sempre più sui lavoratori. Anche quando si ha un lavoro e l'economia cresce, è sempre più difficile che una famiglia in difficoltà riesca ad uscire dalla povertà. Più difficile per i giovani iniziare il percorso lavorativo, più difficile andare in pensione. Tutto questo deve farci continuare a combattere per avere pari opportunità per tutti. Negli ultimi 7 anni il nostro obiettivo era avere un'economia in crescita che portasse benefici a tutti. Abbiamo fatto progressi, ma dobbiamo farne altri. Le famiglie che vivono di food stamp non hanno causato la crisi economica. Non sono gli immigrati che non fanno crescere gli stipendi, ma le persone nelle stanze dei bottoni. Immigrants aren't the principal reason wages haven't gone up. Those decisions are made in the boardrooms. Così appunto uno dei passaggi dell'intervento nella notte, l'ultimo discorso sullo Stato dell'Unione a presidenza Barack Obama. I food stamp sono i buoni per comprare il cibo. Comunque le reazioni, il 53% degli americani secondo un sondaggio della CNN ha apprezzato, ha promosso il discorso di Obama, lo ha bocciato come era presumibile invece Donald Trump, ha detto è stato uno dei più noiosi, sconclusionati e senza sostanza che ho mai sentito da parecchio tempo. Una nuova leadership arriverà ben presto, sostiene Trump e immagina che sia la sua. Una nuova leadership arriverà ben presto, dice anche il Partito Repubblicano, ma non cita Trump. E invece una non nuova corrispondenza, ma una storica corrispondenza dagli Stati Uniti arriva subito. Mario Platero, buonasera Mario. Buonasera, eccoci Sebastiano. Allora ti chiedo solo 2 minuti di pazienza, che ho il metro, la pubblicità e poi un commento, partendo dal dato il racconto economico di Obama era di un paese che ha l'economia più forte al mondo, e non c'è dubbio con quello che sta capitando a Cina, Brasile, Russia e quant'altro, però in cui l'abbiamo sentito le diversità e la forbice aumenta, l'indice di Gini potremmo dire, quelli che hanno studiato almeno, ed è sempre più difficile recuperare le posizioni perse o uscire dalla situazione in cui si è. Ascoltavamo l'ultimo passaggio, un Obama che riconosce che comunque le ferite, le cicatrici di questa crisi non si sono completamente, anzi sono ben lungi da rimaginarsi. Dopo il metro, la pubblicità, la tua analisi. Focus Economia. Allora, Mario Pratera, un Barack Obama che inizia con diciamo le cerimonie di congedo, mettiamola così, manca ancora del tempo, ci mancherebbe, però insomma, ricorda che l'America adesso ha un sistema sanitario, l'Obamacare, che è la vera riforma che Obama è riuscito a fare nel suo secondo mandato. Dice no, nuove guerre, apre a paesi come Iran, Cuba e Cina, ma soprattutto nel passaggio che abbiamo sentito rivendica la forza dell'economia americana dopo la sua cura, e anche se riconosce che ancora c'è una differenza sociale che si è ampliata e una difficoltà in chi ha perso posizioni nel recuperarle. Mario. Eccoci, sì, Sebastiano. Dunque, direi, tornando a quello che abbiamo ascoltato prima nel suo discorso, mi ha colpito molto, anche ascoltandolo ieri sera ovviamente, la seconda parte, cioè lui dice le cose vanno molto bene, ma la gente è scontenta, e questa è la verità. L'America è forte, tu stesso lo dicevi, soprattutto se vediamo cosa succede in Europa dove c'è una crescita sfittica, o in Cina dove peggio le cose stanno forse andando male. Ecco, l'America invece va bene, 70 mesi di occupazione e così via, così via. Ma il problema è che l'umore della gente è, come dire, non ottimista, non positivo su due fronti. Uno è quello economico, e Obama lo ha ricordato, ha detto eppure la gente non è contenta, e l'altro per la paura del terrorismo. Ecco, su questi due fronti, secondo me questo è il limite, è stato il limite del discorso di Barack Obama di ieri sera, il presidente non ha offerto delle soluzioni o delle prospettive, ha fatto un discorso molto razionale, molto intellettuale, come abituato a fare lui, ma non è andato a rassicurare la pancia del paese, che in questo momento è, come dire, non funziona, non va bene. E questo secondo me è stato il limite del presidente. Lui ha voluto fare un discorso più per la storia, ha voluto mettere nero su bianco che l'economia va bene, che le cose funzionano, che in futuro, ha parlato del futuro, ha parlato fra 10-15 anni, ha detto addirittura, ma la gente è interessata a capire quello che succede oggi. Ecco, questo secondo me è un problema sul piano politico, perché dà spazio ai Trump, dà spazio, tu stesso hai citato quello che ha detto Trump, lo possono attaccare, perché nella percezione comune è stato un discorso così, un po' con dei luoghi comuni, ecco, scusate la ripetizione, il gioco di parole, ma l'America è grande, l'America va bene, l'economia funziona, noi siamo un paese. Però vuol dire, è chiaro che via, Mario, vista dal nostro punto di vista, ma varrebbe anche, poi parleremo di Russia, figurati, di che cosa si possono lamentare gli americani? Ora, è chiaro che il dato aggregato è la media di Trilussa, dei polli di Trilussa, però hai una disoccupazione sotto al 5%, vicino al 5%, che continua a calare da, appunto, come tu ricordavi, 70 mesi. Hai recuperato dal punto di vista della crescita economica e anche della borsa i livelli precedenti alla crisi, per cui rispetto al resto del mondo hai un petrolio che comunque, per quello che importa, hai raggiunto anche una quasi totale autonomia sul fronte energetico, l'Obamacare, la riforma sanitaria è stata molto criticata. Da dove nasce? Cioè, è il dato aggregato che trae in inganno, perché tu dici sì, l'America è ritornata come dato complessivo a crescere come nel 2007. Il problema è che dentro questo dato si sono ampliate le differenze, oppure è Obama che non riesce più a entusiasmare l'opinione pubblica, nel senso a dare quell'elemento emotivo di speranza, di fiducia, di anche di orizzonte, se posso usare il termine. Ecco, secondo me è una combinazione delle due, cioè il punto è che la gente è occupata ma fa grandi difficoltà per arrivare alla fine del mese, un po' tutti, numero uno, e Obama continua un po' a ripetersi. Però il punto su cui vorrei tornare è che questo discorso di ieri sera, al di là appunto delle rivendicazioni, e su questo non c'è dubbio, l'America sta molto meglio di molti altri, ma sta meglio forse non soltanto grazie a Obama, ma perché l'America è un paese flessibile, un paese che si rimbocca le maniche, un paese che davanti alla crisi reagisce, un paese che accetta la disoccupazione quando si deve tagliare, così via, così via. Quindi c'è un fattore costante americano che va messo nell'equazione. Ma il discorso di Obama di ieri è stato soprattutto un discorso politico. Lui ha voluto frenare appunto la destra repubblicana che dice che le cose vanno male, ha voluto frenare Trump per i suoi estremismi, ma secondo me lo ha fatto senza andare a colpire direttamente nel segno. Se vuoi, è stata più efficace Nikki Haley, che ha risposto a Barack Obama, il governatore della South Carolina, di origine indiana, la quale anche lei ha attaccato Trump, è venuta fuori con, insomma, è apparsa una donna di grande statura politica, secondo me potrebbe essere uno dei candidati alla vicepresidenza in un ticket repubblicano, e dunque Barack Obama ha sì rivendicato cose fattuali che conosciamo, però poi non ha dato delle risposte concrete. Ecco, secondo me il limite del suo discorso è stato in una mancanza di concretezza. Nel concludere, dunque, molti ce l'hanno con Obama, il peggior presidente della storia americana con Bush, immagino figlio, no? Io non sono assolutamente d'accordo, uno può pensare come vuole su Obama, che abbia deluso, che ci fossero tante attese per il suo intervento, che abbia sbagliato, sì, sulla politica estera, sia stato debole, debolissimo, però non dimentichiamoci che Bush figlio è quel genio che ha scatenato una guerra inutile allora e disastrosa adesso in Iraq, per dei fantomatici, delle fantomatiche armi chimiche che non si sono mai trovate. Bush figlio era quello che aveva nel suo gabinetto, cioè tra i suoi ministri, persone come Dick Cheney e Donald Rumsfeld, che avevano amplissimi conflitti di interessi, e penso solo alla Holly Barton, con la famiglia saudita, con il mondo del petrolio. Cioè, voglio dire, non paragoniamo due cose, stavo per fare una battuta che non c'entrava nulla, ma insomma, ognuno dia giudizi anche un minimo legati ai fatti. Poi può pensare che Obama è stato un terribile presidente perché ha disatteso tutte le promesse. E su questo ti vorrei, al di là del fatto che alcuni scrivono Platero è un fan di Obama, altri scrivono Platero è un repubblicano, ma tu voti negli Stati Uniti, no? Beh, io probabilmente quest'anno potrò votare, sì, perché ho preso la doppia cittadinanza. Platero l'americano con la K, quindi si vedremo, scrive una volta. Mi diverte Sebastiano quello che dice, che uno dice Platero è un repubblicano e l'altro dice Platero è un fanatico. Diciamo che Platero è solo un americano a questo punto. Ecco, questo è un complimento. Però dimmi. Evidentemente opposizioni talmente, come dire, imparziali che non esistono gli uni negli altri. Però dimmi, iniziamo con qualche previsione, visto che voterai anche tu e il tuo voto sarà determinante a questo punto. Qualche previsione sul abbiamo un partito repubblicano che tollera male a essere buoni Donald Trump, Hillary Clinton sul fronte democratico. Tu citavi giustamente la governatrice del South Carolina e Nikki Haley, anche perché lei è nata da una famiglia di origine Sikh, quindi è emigrata dall'India ed è considerata un emergente nel partito repubblicano. Secondo te quale sarà lo scontro finale per le presidenziali? Non ti chiedo chi allora, potrà vincere. Lo scontro finale è lontanissimo. Io mi avvicinerei più a quello che succederà a Iowa e New Hampshire. Iowa a fine del mese, New Hampshire una settimana dopo. E ci sono delle cose interessanti successe proprio negli ultimi giorni. Uno, Hillary Clinton è in difficoltà perché Bernie Sanders, il senatore democratico della sinistra che la sta attaccando violentemente, improvvisamente è risalito nei sondaggi, sembra godere di un forte appoggio popolare ed è in alcuni sondaggi vicinissimo a lei, tipo 40,2 Hillary e 40 lui, e in alcuni altri sondaggi addirittura la supera. Per Hillary sarebbe un disastro se Bernie Sanders dovesse vincere l'Iowa e probabilmente anche il New Hampshire, ti aspettavi il New Hampshire perché e dell'East Coast, per cui c'è incertezza sul fronte democratico e c'è incertezza ovviamente sul fronte repubblicano, perché Trump o Cruz non sono presentabili, sono degli ossessi che urlano, che cercano la rissa, e devo dire il volto di Nikki Haley è stato un volto rassicurante che farà molto riflettere gli americani. Per cui la corsa sarà lunga, alla fine io credo che i candidati in campo repubblicano possono essere Rubio, sicuramente, che è molto credibile. Potrebbe esserci un ritorno di Bush, sarà molto interessante se questo capiterà davvero, perché oggi è molto indietro nei sondaggi. E dunque una corsa che resta, secondo me, completamente aperta. Direi che guardare al finale oggi è impossibile. Fai notare appunto che dell'emergente che ha il vantaggio, già citano, di essere anche donna, perché poi il tema è: arriverà dopo il primo presidente di colore anche la prima presidente donna? Certo che se dovesse salire Nikki Haley per i repubblicani avrebbe anche, diciamo, questo vantaggio, quantomeno come impatto mediatico. Mario, non sì, sono... devo dire un discorso, chi può vederlo su YouTube dovrebbe andarlo a vedere, perché ha fatto un discorso molto buono, si presenta molto bene, molto solida, molto intelligente, insomma è un personaggio che sicuramente funziona. Però, e questo è il sintomo, se vuoi, che fa da contrappeso al discorso di Barack Obama, quello che sta capitando in queste elezioni dimostra che siamo in un paese comunque confuso, che è uscito tecnicamente dalla crisi del 2006-2008, ma non è uscito ancora da questa crisi strutturale in cui un po' tutti ci ritroviamo per via della globalizzazione. Allora, visto che voterai, poi ti avremo anche come diretto interessato, concludo con un messaggio che lascia un ascoltatore. Platero mi sembra un po' migliorato, tu Barisoni sei sempre più rimbambito. E vabbè, capito, almeno uno dei due l'abbiamo salvato. Grazie a Mario Platero, in collegamento con noi da New York. Traffico. Focus Economia. Senta, intanto la Germania sembra quasi alimentarla questa rottura, però, perché predica l'unione così più o meno, ma poi fa accordi bilaterali sul gas con la Russia. Allora? Questo è un fatto gravissimo, che io solo ho denunciato già da 6 mesi, poi tutti hanno taciuto, poi è saltato fuori resta. Cioè, diciamolo agli ascoltatori brevemente, c'è una tensione forte sull'Ucraina fra Unione Europea e Russia. La Germania è il più severo, il più duro paese sulle sanzioni, non ne vuol sapere di attenuarla, e però con la Russia il più grande accordo economico che ci sia. Il massimo della contraddizione politica, degli interessi nazionali e basta. Non solo, ma che pregiudica il futuro, che cambia il futuro dell'energia europea, perché tutta l'energia arriverà dalla Germania attraverso dalla Russia attraverso la Germania. Oh, come capite, dagli Stati Uniti ci spostiamo alla Russia, sembra, dicevo, di essere nella vecchia guerra fredda, da Washington a Mosca. Questo era Romano Prodi questa mattina con Giovanni Minoli a Mix 24 qui a Radio 24. Il riferimento era sul tema del Nord Stream, che è un tema non da poco, so che alcuni si annoiano. Insomma, se tutti facciamo le sanzioni alla Russia e ne paghiamo noi come italiani delle conseguenze pesantissime, perché sul fronte del legno arredo, quindi dei mobili, dell'alimentare, ci sono aziende italiane in ginocchio per questo. Ripeto, a inizio febbraio si aprirà questa grandissima fiera dell'alimentare russo. Una volta erano 70 le aziende, i gruppi italiani che partecipavano, adesso non arrivano a 14, per far capire quanto sia crollato quel mercato. Vorrei occuparmi di Russia anche perché oggi è arrivato un allarme del primo ministro Medvedev di prepararsi al peggio se il greggio dovesse scendere ancora come prezzo. La Russia riesce ad avere un bilancio pubblico sostenibile con un prezzo del petrolio e quindi anche del gas a $82 al barile. Siamo a 30, avete già capito il buco che si crea in un'economia che l'anno scorso, cioè 2015, ha fatto un meno 4%, un'altra recessione, meno 4% come andamento del suo PIL. Professor Mario De Aglio, che insegna economia internazionale all'Università di Torino, buonasera. Buonasera a tutti voi. Intanto vuoi dare una chiosa anche su quanto ricordava Mario Platero, l'eredità di Obama e la confusione che regna nei due schieramenti repubblicani da una parte e democratici dall'altra, o se no andiamo subito sulla Russia, so che ascoltava anche... La chiosa è telegrafica, Platero ha ragione, la confusione interna americana è un altro aspetto della confusione generale del mondo. Ma questo lei lo riferisce anche alla politica estera, perché obiettivamente vedo che alcuni... l'economia e la politica estera. Vedo che alcuni dicono che Obama è stato un pessimo presidente con politica estera. Io personalmente sono anche d'accordo, ho solo detto non paragoniamo quello che è stata l'eredità di Bush con l'eredità di Obama, cioè i fatti devono contare anche nella vita. Io capisco che questo è il paese dei Guelfi e Ghibellini, ma Obama riconsegna un paese che era in ginocchio con la più grande crisi finanziaria dal 29, con una crescita unica a livello mondiale, una disoccupazione tornata al 5%, ha usato bene la leva monetaria, ha stampato dollari, però ha fatto anche gli investimenti e quant'altro, un paese sicuramente confuso, dove le differenze di salario sono rimaste, lo riconosceva lui stesso, però insomma, e poi avrà sbagliato tante cose in politica estera. Non confondiamolo semplicemente con un Bush che ha creato parte dei casini, scusatemi il termine, che dobbiamo gestire in Medio Oriente grazie a una guerra del tutto inutile, visto che se l'obiettivo erano le armi chimiche, ricordo a tutti che non si sono mai trovate e che lo stesso Tony Blair, con una faccia diciamo un po' di tolla, qualche mese fa ha detto chiedi scusa, devi chiederlo alle vittime irachene e anche ai militari britannici. Comunque, chiusa questa parentesi, andiamo sulla Russia. Oggi molto preoccupati tutti i vertici. Medvedev ha detto attenzione, le possibilità dello Stato non sono infinite. La classe media si è impoverita, la crisi è ben lontana dai livelli del 98, però il paese è a rischio depressione. E poi il ministro delle finanze ha detto con i conti, con questo prezzo del petrolio saranno insostenibili, e il ministro dello sviluppo economico ha aggiunto i prezzi bassi possono durare decenni, e il Cremlino ha ordinato degli stress test sull'economia russa e anche sulle banche, immaginando tre scenari: un petrolio a $25, un petrolio a $35 e un petrolio a $45. Quanto reggerà la Russia sulle sanzioni? E se vuole commentare però anche il tema, diciamo, degli animali della fattoria di Orwell, siamo tutti uguali, però poi la Germania è più uguale degli altri, mi riferisco al Nord Stream, prego. Posso ricollegare questo alla sua chiosa di Obama. Grazie a una politica sconsiderata degli Stati Uniti, noi stiamo portando la Russia passo dopo passo verso una situazione di grave conflitto contro di noi. Nello stesso giorno in cui Obama dice che sostanzialmente l'estero non conta, ha fatto un discorso dell'Unione tutto rivolto all'interno, e per esempio sul terrorismo dobbiamo cavarcela da solo noi, perché non è un interesse essenziale degli Stati Uniti. No, ma che sulla politica estera abbia fatto delle cavolate, pensiamo alla gestione della Siria, insomma cavolate, che non posso usare altri termini, certo. A quello che è successo in Libia, grazie anche a quell'altro genio di Sarkozy, nel senso insomma, che nulla si possano puntare come medaglia agli Stati Uniti nella politica estera medio orientale, questo insomma, lo dicono i fatti, non lo diciamo noi. E sulla Russia direi che siamo su situazioni parallele, in quanto la crisi ucraina è stata portata a un livello parossistico da una contrapposizione Occidente-Russia che sostanzialmente per quanto riguarda l'Europa non esisteva più di tanto. L'Europa soffre per le conseguenze economiche e poi per conseguenze indirette, perché se aumenta la tensione noi ci troveremo comunque a dover adottare delle misure. Per esempio, come si ricordava prima, non possiamo poi dipendere soltanto da un oleodotto sul fondo del Mar Baltico. No, ma infatti, perché adesso io lo chiarisco a tutti, il gas in questo momento in Italia arriva da due, il gas russo arriva dall'Ucraina e poi c'è un altro gasdotto che, se non ricordo male, scende dall'Olanda come approvvigionamento europeo. Il problema è che se il Nord Stream verrà raddoppiato, la grande quantità del gas che useremo anche noi arriverà dalla Germania, ma soprattutto, a mio avviso, non è solo un problema di approvvigionamento, è anche proprio di immagine. Cioè, tu non puoi essere uno dei più rigorosi come la Germania nei confronti delle sanzioni con la Russia per motivi tuoi di politica estera, di diciamo visione centroeuropea, e poi però fa gli affari, perché lì c'è di mezzo anche Schröder, l'ex cancelliere, se non ricordo male, non so se sia ancora consulente del governo russo, ma lo era, proprio sul Nord Stream, determinanti, certo, della costruzione del primo perché gattolo. Capisci, no, dopodiché se no e intanto noi paghiamo le conseguenze. Quali conseguenze? Allora, l'export del Made in Italy verso la Russia è crollato l'anno scorso del 30%, 250 milioni di euro di mancate esposizioni agroalimentari, parlo solo dell'agroalimentare, e quindi sono circa 20 milioni di euro al mese di mancate esportazioni di imprese che tra l'altro non sono grandi colossi, sono anche medie imprese del settore alimentare. Complessivamente l'escalation delle sanzioni reciproche porterà nel biennio 2014-2015, secondo la SACE, per tutti i beni italiani, un danno di esportazioni tra 1 miliardo e 800 milioni e 3 miliardi, perché c'è anche la meccanica strumentale che è la più colpita, un calo compreso tra i 650 milioni e il miliardo e 100 milioni, con un'aggiunta che a me fa ancora più arrabbiare, poi ne parleremo, professor De Aglio, che soprattutto sull'alimentare si stanno organizzando in Russia e quindi iniziano a comprare una cosa che non hanno mai fatto, i prodotti italiani taroccati. Pensate che le mozzarelle, la produzione di formaggio simile italiano in Russia nei primi 4 mesi del 2015 ha fatto più 30%, e iniziano ad arrivare anche le mozzarella, la robiola e il parmesan, mentre prima non esisteva l'Italian Sounding. Come se ne esce, glielo chiederò e vorrei la risposta dopo il GR 24 349 238 6666 per WhatsApp ed SMS. Gira il mondo, gira e sempre più vorticosamente. Difficile capire tutto quello che accade, ma state tranquilli. A fine giornata vi racconto cosa è successo in Italia e all'estero, con i servizi della redazione e con gli ospiti in diretta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, con Roberta Giordano. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Focus Economia. E 8 minuti, adesso arriviamo alla borsa e soprattutto alle banche popolari, però vorrei concludere con il professor Mario De Aglio, al di là dell'elemento anche strategico sul gasdotto, cioè noi continuiamo, il tema sono le sanzioni con la Russia, visti oggi gli allarmi lanciati dai vertici russi, lo dico che si fosse appena messo in collegamento, abbiamo prorogato come Unione Europea per di 6 mesi le sanzioni economiche contro la Russia, ma secondo lei a un certo momento... come io, non è che tutto si risolva con l'economia, per carità, sappiamo che di mezzo c'è la crisi con l'Ucraina, ma come si potrà uscirne? Oppure secondo lei la linea, tanto l'ha detto negli Stati Uniti e poi la Germania in Europa? È molto difficile vedere in questa sfera di cristallo. Va aggiunto un ulteriore elemento, che sono in corso le trattative del cosiddetto TTIP, cioè questo mega trattato non soltanto più commerciale, ma anche economico-istituzionale, che gli Stati Uniti soprattutto vorrebbero concludere con l'Unione Europea. Gli Stati Uniti in sostanza ci offrono di essere più legati a loro, per esempio quando prima parlava delle minori esportazioni agroalimentari verso la Russia, va anche tenuto conto che sono aumentate molto verso gli Stati Uniti, e che gli Stati Uniti offrono tra l'altro una peraltro molto modesta protezione per i marchi della mozzarella e di tutte queste cose qui. Quindi abbiamo una lotta importante su dove si va a collocare l'Europa. Francamente mi è difficile fare previsioni, come dicevo all'inizio, l'incertezza in questo momento è la chiave di lettura di quasi tutto quello che succede al mondo. In quest'anno bisestile sembra proprio che i discorsi chiari, le soluzioni pensate a tavolino non abbiano spazio di fronte a elementi improvvisi che vengono a modificare la situazione. Grazie, grazie anche all'economista Mario De Aglio. Adesso andiamo sulla borsa. Borsa senza le banche popolari, che sarà oggetto di un approfondimento apposito, visto che oggi sono la notizia di borsa. Pop Milano fortissima, sospese per sostegno rialzo, più 5,60 Banca Popolare, più 4,21 Popolare Emilia Romagna, più 3%, UbiBanca più 2,33. Questi sono i quattro titoli che oggi, tra quelli a maggiore capitalizzazione, crescono di più. Se andiamo a guardare anche in assoluto i migliori e peggiori di tutto il listino, ci accorgiamo che comunque la Pop Milano si colloca tra i primi, si colloca al settimo posto. C'è la Roma Calcio più 5,90, Piaggio pure, Astaldi più 6,30, Digital Bros più 13,5%, ma più con un rialzo diciamo meno forte il Monte dei Paschi più 1,80 come Generali, Intesa San Paolo più 1,80, e poi segue un'altra pattuglia di titoli, Campari più 1,5 come Enel ed Enel Green Power, Prismian più 1,30 come Poste Italiane, Enel più 1,1, scusatemi, Eni più 1,1 come Mediobanca. Fronte opposto, risparmio gestito e lusso, ciò che ieri invece cresceva, meno 3,50 Anima Holding, meno 2,70 Moncler, meno 2,40 Tod's, meno 2,20 Azimut, meno 1,70 Yux, Net-a-Porter, meno 1,40 Ferragamo, e poi Fiat Chrysler perde l'1,30% come Steam Microelectronics, Ferrari meno 1,1 ma riconquista i 40 euro, era scesa anche sotto i 40 euro per azione, Saipem meno 1,1 come A2A e Terna. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Al di là delle banche popolari, oggi io non sto capendo cosa stia succedendo sul lusso e anche sul risparmio gestito. Mi sembra un po' una rotazione molto speculativa di giorno in giorno, Eleonora. Sì, infatti, poi diciamo che la borsa soffre di una grandissima volatilità, anche il listino stesso, che oggi guadagnava quasi il 2%, alla fine è salito, ma solo dello 0,85%, Francoforte ha chiuso invece in terreno negativo. Tutto questo per dire che c'è un'alta volatilità sia del listino in generale, sia dei singoli titoli. Ieri era andato bene il lusso, oggi gli investitori evidentemente ci hanno già ripensato, gira anche uno studio di Barclays dove si punta l'indice sul fatto che il rallentamento dell'economia cinese sicuramente peserà sul giro d'affari delle case del lusso, in più la maggior parte di queste tendono ad alzare il listino prezzi in Europa e questo alla fine potrebbe essere penalizzante anche sulle vendite del vecchio continente che invece hanno registrato dei rialzi. Insomma, anche la banca d'affari ha contribuito a creare più cautela sul settore, quindi oggi si sono vendute le azioni che invece ieri andavano a ruba. A2A invece ha confermato una debolezza che già emergeva ieri, ha chiuso con un calo dell'1,1%, però ha chiuso l'accordo con Linea Group, no? Sì, finalmente sì, finalmente, visto che durava da mesi, l'acquisizione di Linea Group era in ballo infatti da molto tempo. Ieri poi c'è stato l'accordo, rileverà il 51% come sappiamo, pagato in parte attraverso azioni, in parte attraverso soldi, però la borsa da ieri comunque ha penalizzato le azioni, ieri sono andate male in controtendenza, oggi hanno perso un ulteriore 1,1%, ma soprattutto sono state negative per tutta la seduta. Ancora tra l'altro si appunta LGA che è entrata con il 51%, però su questo e al di là, ripeto, vedo molte domande. Adesso arriviamo al settore bancario. Telecom Italia, oggi Telecom ha presentato il nuovo marchio di TIM, se ho ben visto è la T di TIM, che caratterizzerà tutte le offerte del gruppo, un'icona rossa che rappresenta una T e il nome in bianco su fondo blu. Vabbè, il nome Telecom Italia resterà solo da un punto di vista societario, presentato dal numero uno Marco Patuano, il quale sia Patuano ma anche e soprattutto Giuseppe Recchi, il presidente, hanno detto su Orange non c'è assolutamente niente, sono colpito dalle speculazioni che apparentemente provengono da loro. Devo dire che poi il titolo Telecom, come ricordavamo, è rimasto fermo oggi lungo tutto. Prego. Sì, il titolo alla fine ha chiuso invariato, d'altra parte l'attenzione rimane alta, ovviamente anche nei report che circolano si tende a evidenziare il fatto che comunque l'amministratore delegato di Orange ha manifestato sicuramente interesse, dicendo che dopo il matrimonio tra Orange, ricordiamo che è l'ex France Telecom, e la francese Bouygues, potrebbe continuare il consolidamento nel settore delle TLC e passare proprio per Telecom Italia. Comunque l'amministratore delegato di Orange ha detto di non avere trattative in ballo né con Xavier Niel né con Vivendi, che ricordiamo sono due soci francesi che detengono rispettivamente oltre il 20 e il 15% del capitale di Telecom. L'attenzione rimane alta, il titolo ha chiuso invariato anche perché Recchi ha detto che non c'è niente, però peraltro saranno in Francia a decidere se eventualmente c'è questo interesse. Va detto di sicuro che comunque in prima battuta Orange dovrà effettuare una eventuale integrazione prima con Bouygues, quindi i tempi non sono a stretto giro. Sì, però come giustamente ricordavi tu, queste indiscrezioni, questo interessamento non arriva da indiscrezioni di stampa, ipotesi fantasiose, arriva dai vertici di Orange stessi, per cui non è che, e lo diceva anche Recchi in maniera più morbida, diceva apparentemente provengono da loro. Visto che citavi i migliori e i peggiori, diamo anche i peggiori oggi della seduta, che sono Nova Re meno 9,20, Sintesi meno 8,80, Invest meno 6,60, IKF meno 3,60%. Grazie all'onore Michele, Radio Corriere sulle 24 ore. Dopo il traffico andiamo sulle popolari in grande fermento. Io dico, bisognerà abituarci, sì. Ma è chiaro che di questi quattro titoli, Pop Milano più 5,60, Banco Popolare più 4,20, Pop Emilia Romagna più 3%, Ubibanca più 2,30, e qui si formano le coppie, il gioco delle coppie si chiamava una volta, insomma qui sono in quattro e già ci sono nominati i più papabili pretendenti a un matrimonio. Adesso poi i matrimoni si fanno in due di solito, bisogna capire, in questo caso sono matrimoni vecchio stampo, uno tende a comprare e l'altro essere comprato, non saranno sempre matrimoni alla pari. Comunque ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per gli sms e WhatsApp. Focus Economia. C'è un sistema del credito in Italia che funziona alla grande, nel senso che ci sono le difficoltà, i problemi che tutti noi conosciamo, che abbiamo affrontato, che stiamo affrontando, che affronteremo. Abbiamo in Italia delle realtà nel mondo bancario e nel mondo finanziario che sono degli autentici campioni europei. E mi limito a dire europei per il momento. I dati che vi ha dato il dottor Messina sono impressionanti, perché sono da 27 a 40 miliardi di euro di credito per gli investimenti. È tanta roba. E ancora ne verrà nei prossimi mesi, purché l'Italia smetta di piangersi addosso. È la storia di Intesa San Paolo che in questi due anni ha fatto un risultato incredibile, valeva, se non ricordo male, circa 25-26 miliardi di euro come valore in borsa, oggi è ampiamente sopra i 50 miliardi di euro ed è uno dei principali player europei. E io credo che da questo punto di vista bisogna anche avere il coraggio di dire che in Italia siamo nelle condizioni di poter fare storie di successo in tutti i settori, anche nel settore bancario. Allora, vabbè, storie di successo nel settore bancario, per ora raccontiamo storie di fregature per gli risparmiatori nel settore bancario. Dopodiché è verissimo quanto ricordava, perché oggi veniva presentato anche il protocollo d'intesa con Intesa San Paolo, scusate gioco di parole, sull'agroalimentare. Intesa San Paolo ha detto di aver messo a disposizione delle aziende del comparto un plafond di 6 miliardi di euro in 3 anni, ha ricordato il numero uno d'intesa Carlo Messina, come Intesa San Paolo abbia erogato nel 2015 40 miliardi di prestiti a medio e lungo termine. Detto ciò, il tema delle banche in questo momento non riguarda Intesa San Paolo, ma riguarda soprattutto le banche popolari. Allora, Luca Davi, oggi la borsa, insomma, ci ha fatto capire, non è che ci volesse molto, le indiscrezioni erano già circolate, insomma, dove si stanno orientando le nozze future. Allora, BPM Banco Popolare e poi Ubibanca, che Brescia e Bergamo vorrebbe subentrare al Banco Popolare nella fusione con BPM, E poi c'è sullo sfondo, come vedevamo anche dall'andamento di borsa, la Popolare Emilia Romagna. Diciamo che in questo momento la preda è brutto, ma la sposa ambita, se ho ben capito, è la Popolare di Milano. È sicuramente la banca che è un po' il crocevia di tutte le attenzioni di tutte le banche popolari italiane in questa fase, perché è un territorio, che quello lombardo, che funziona, è una banca che ha fatto un lavoro di progressivo consolidamento e miglioramento del proprio bilancio, e quindi oggi sicuramente le banche provano a cercare l'aggancio, di fare il puzzle che potrebbe funzionare. E quindi che cosa sta succedendo? Sta succedendo che le banche che tendenzialmente vogliono riuscire ad arrivare per prime a consolidarsi cercano insomma la sposa migliore. C'è stato per un certo periodo UBI che ci ha provato, si è riagganciata il Banco Popolare che da parte sua ha tentato un percorso. Prima di Natale sembrava che UBI e Banco, pure tra di loro, potessero trovare una possibile alleanza, e poi cosa è accaduto? Che alla fin fine, in questa fase, almeno in questa fase attuale, BPM sembra in qualche modo predestinata ad un'alleanza, a una partnership col Banco Popolare. Molto è legato anche che creerebbe un asse, diciamo così, Verona-Milano sulla 4, diciamo così. Sì, ma anche UbiBank è sulla 4. Sì, è vero. Perché sempre Bergamo sempre e Brescia, insomma, se non ricordo male, sono dei caselli della 4, per cui il problema è capire se questo asse è un asse, diciamo, Milano-Brescia-Bergamo o è un asse Milano-Verona che bypasserebbe l'asse Brescia-Bergamo. Da questo punto di vista gli ascoltatori fanno due domande soprattutto. La prima: ma è esclusa completamente un'operazione a tre? In questo caso non si tratterebbe più di un matrimonio, ma di un'altra formula, diciamo, di una coppia aperta, non so come chiamarla, però insomma a tre, che coinvolgesse anche UbiBanca. E seconda domanda che vedo da molti ascoltatori: se a quel punto l'asse dovesse essere Popolare di Milano con Banco Popolare, UbiBanca si potrebbe rivolgere alla Popolare Emilia Romagna? Sono domande interessanti. Direi che allo stato attuale si può abbastanza escludere, diciamo proprio in prima battuta, che si possa arrivare a una fusione a tre, perché già fare una fusione a due è complicato, perché ci sono equilibri di governance da trovare, ci sono concambi, ci sono valori, ci sono anche organigrammi da rifare, insomma ci sono territori da fondere, è una roba abbastanza complicata. Quindi tendenzialmente tutti, insomma, gli osservatori vedono possibile anzitutto una fusione a due. E per questo BPM e Banco, che sono, diciamo così, hanno pesi similari, almeno in borsa, seppur magari pesi diversi in termini di, diciamo, di attivi bancari, comunque potrebbero trovare un loro diciamo incastro. E cosa succederà dopo? Si vedrà. Qualcuno non esclude che in una seconda fase, in una seconda battuta, magari il primo soggetto che verrà a crearsi a questa fusione poi possa portare nella propria orbita un terzo soggetto. Sull'ipotesi UBI BIPER, cioè UBI e Banca Popolare Emilia Romagna, io sarei un po' più cauto. Quello che vediamo in questo momento è che c'è sicuramente euforia sul mercato, perché queste sono le banche che alla fin fine potrebbero trovare un pochettino potrebbero trovare una creazione di valore nel caso riuscire a trovare l'aggancio giusto. Ci sono invece altre banche che, come sappiamo bene, sono Siena, quindi Monte dei Paschi, e Carige, che invece in questa fase stanno subendo forse il mancato supporto che in una fase di risico invece potrebbero trovare. La verità qual è? Che se in una fase iniziale dello scambio e del valzer, del balletto delle fusioni e delle aggregazioni, sia Monte dei Paschi sia la banca genovese sembravano destinate a entrare nei giochi, oggi questo manca, ed forse anche qualcuno magari se n'è accorto, qualche investitore internazionale ha mangiato la foglia e forse, come si dice in gergo tecnico, sta andando a ribasso, sta giocando corto sul titolo. E questa catena probabilmente sta in qualche modo infiammando. Sì, devo dire, anche se oggi Monte dei Paschi ha fatto più di 90 e Cassa di Giorno non l'ho vista, comunque adesso controllo. Diciamo che anche sono a livelli di minimi storici. Però sono sempre ai minimi. Monte dei Paschi è sotto un euro operazione a 94 centesimi. E qui il problema è: non è che ci siano sette spose per sette fratelli, nel senso che c'è anche il rischio, uscendo dalla metà, dall'immagine, diciamo, del matrimonio, c'è anche il rischio che qualcuno resti da solo, un rischio fortissimo che diventa un elemento negativo, perché se a restare da sola dovesse essere una banca che è già debole, è chiaro che è una cosa diversa, sarebbe un segnale di un'ulteriore debolezza di questa banca. Visto che ci chiede i rapporti di forza, allora il banco, la UbiBank è la più forte delle tre, nel senso che capitalizza 5 miliardi e 7 più o meno, insomma, a seconda della borsa. Invece Banco Popolare capitalizza 4 miliardi e 7, un miliardo e meno, Popolare di Milano 4 miliardi. Però Banco Popolare vorrebbe un'aggregazione paritaria, ecco perché secondo me tu citavi più la Banca Popolare che UbiBank, perché con Banco Popolare sarebbe più facile andare in un matrimonio alla pari, quello che sia merger, mentre con UbiBank, certo, essendo più grande, ci sarebbe la tendenza ad avere un matrimonio in cui, diciamo, uno è più assoggettato all'altro, o uno è più forte dell'altro, certo, in questo caso UbiBank. Nell'ipotesi di nozze da BPM e Banco Popolare è circolato uno schema in cui il numero uno sarebbe a quel punto l'attuale numero uno del Banco Popolare, il presidente Carlo Frattapasini, e poi Pier Francesco Saviotti andrebbe alla guida del comitato esecutivo e Giuseppe Castagna nuovo AD all'interno del gruppo. Nel caso di un accordo con UBI invece, e già si capisce che sarebbe meno paritario, sempre in base alle ipotesi circolate, il presidente sarebbe l'attuale numero uno di BPM Piero Giarda, poi vicepresidenti gli altri due presidenti di UBI, Moltrasio e Polotti. A Victor Massià andrebbe la carica di amministratore delegato, quindi il numero uno di UBI resterebbe il numero uno anche della nuova banca, mentre a Giuseppe Castagna andrebbero le deleghe sulla direzione generale, quindi un po' più diluito il potere del Banco Popolare. Quando, ed è l'ultima domanda, ti chiedo una risposta molto veloce, quando avremo le idee più chiare? Ecco, diciamo una cosa, che ci sono dei tempi tecnici per fare questo tipo di operazioni, è ragionevole che ci sia una finestra che comunque è limitata, è stretta. Se qualcosa dovrà accadere nel giro di 2-3 settimane, una ventina di giorni, e dovremo vedere qualcosa. Se ciò non accadrà, beh, a quel punto ci sarà da aspettare a lungo. Probabilmente anche l'autunno. Questa è la situazione. Grazie Luca Davi. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni vi auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.